Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Riparte la scuola, Conte, abbiamo fiducia e entusiasmo. In aula 5 milioni e mezzo di studenti dopo 7 mesi. Coronavirus, l'OMS avverte, in autunno la situazione in Europa sarà più difficile, nuovo record di contagi, oltre 300.000 in un giorno. Silvio Berlusconi intanto lascia il San Raffaele, anche stavolta l'ho scampata, dice l'ex premier ricoverato per 11 giorni. Google annuncia saremo carbon free entro il 2030. TikTok intanto respinge l'offerta di Microsoft. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, che iniziamo inevitabilmente dalla riapertura dopo tanta attesa, dopo tante discussioni, dopo anche alcune polemiche della scuola. Allora, 5 milioni e mezzo di studenti che sono rientrati in 12 regioni più la provincia di Trento. Sentiamo com'è andata. I problemi non sono ancora tutti superati, ma comunque ragazzi e bambini sono tornati a scuola nella gran parte delle regioni. Anche il premier Conte ha accompagnato il figlio. Beh, oggi è un giorno importante per tutta la comunità nazionale. L'ho detto, non ci nascondiamo anche delle criticità, però siamo anche consapevoli che mai come quest'anno stiamo investendo nella scuola. Investimenti massicci sulla scuola, quasi 3 miliardi, è vero, ma 60.000 si stima siano le cattedre ancora scoperte, 20.000 solo in Piemonte, denuncia il presidente della regione, Alberto Cirio, in polemica con il governo perché ha voluto l'autocertificazione delle famiglie, iniziativa quella piemontese che non è piaciuta al governo, ma che è stata copiata anche a Norcia, dove sono comparsi termoscanner all'ingresso di tutte le scuole per decisione della dirigente scolastica. E poi le tante notizie che arrivano da ogni angolo del paese. La pluriclasse a Cutigliano, sulla montagna pistoiese, con relativa protesta dei genitori. La paura che ancora aleggia a Codogno, dove si decide di fare lezione all'aperto, in giardino, per 11 plessi. Gli assembramenti registrati fuori dalle scuole primarie di Ancona. Bambini e genitori troppo appiccicati, anche se con la mascherina sul volto. Nonostante orari e ingressi scaglionati. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la ripartenza della scuola era anche un banco di prova atteso per i mezzi di spostamento, i mezzi pubblici in città, naturalmente da oggi molto più sotto pressione. Sentiamo com'è andata. Nessuna particolare criticità, la macchina dei trasporti sembra aver retto al suo primo banco di prova l'apertura delle scuole, anche se di test da superare ce ne saranno ancora. In generale nessun mezzo preso d'assalto, rispettate le misure di sicurezza, grazie anche agli orari scaglionati delle scuole da un'apertura ancora a macchia di leopardo. A Roma fa sapere l'ATA che i mezzi questa mattina erano leggermente più affollati rispetto alla scorsa settimana, ma in media lontani dal limite dell'80%. L'azienda ha poi potuto contare su 70 autobus in più sulla linea scolastica, solo una prima parte dei 328 promessi dalla sindaca Raggi, mentre 3 istituti su 10 hanno rimandato l'apertura al 24 settembre. Situazione sotto controllo anche a Milano e in altre città dove sono stati utilizzati mezzi aggiuntivi. A Torino linee potenziate, più autisti e più corse, servizi anche con autobus Gran Turismo. In Toscana la regione ha erogato risorse aggiuntive alle aziende per mettere a disposizione nelle fasce di punta 233 bus di linee aggiuntivi ripartiti per tutte le province. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E nuovo record giornaliero di casi di coronavirus intanto a livello globale, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa sarà un autunno duro, ci sarà un boom di contagi e in ottobre e in novembre faremo i conti anche con un tasso di mortalità più elevato. A dirlo il direttore della sezione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge. Le sue parole lasciano poco spazio alle illusioni e arrivano in una realtà mondiale che registra un record di oltre 309.000 contagi in 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. E sono stati oltre 5.500 i nuovi decessi, portando così a 924.000 il totale delle vittime del coronavirus. Nel mondo i casi confermati sono ormai 29 milioni, secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University. Negli Stati Uniti, che detengono il triste primato del paese più colpito, il bilancio dei decessi ha superato quota 194.000. Subito dietro si trovano il Brasile e l'India, dove per il quarto giorno consecutivo sono state registrate più di 90.000 nuove infezioni. Israele è invece il primo paese a reintrodurre il lockdown per 3 settimane. In Europa non va meglio, con Spagna e Francia che contano migliaia di nuovi casi giornalieri. Nel frattempo, il colosso farmaceutico Pfizer saprà entro fine ottobre se il vaccino anti-Covid a cui sta lavorando funziona o no. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la stretta cronaca siamo alle dimissioni di Silvio Berlusconi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per essere risultato positivo al coronavirus il 3 settembre. Rosanna Magnano, buongiorno. Buongiorno, sì, anche questa volta l'ho scampata bella, questa una delle prime dichiarazioni di Silvio Berlusconi dopo le sue dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano. Questa mattina verso le 11.30, dopo 12 giorni di ricovero, il cavaliere sembra in ottima forma e dopo i ringraziamenti alle persone che gli sono state vicine, familiari, amici, esponenti politici, compresi gli avversari, ha sottolineato, la sua gratitudine è andata all'equipe di medici che lo hanno curato nonostante una carica virale altissima. Sentiamolo. Grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele, prima tra tutti il professor Alberto Zangrillo e i suoi collaboratori, ho superato quello che considero la prova forse più pericolosa della mia vita. E Berlusconi ha lanciato anche un forte appello per il rispetto delle regole contro una malattia che ha definito insidiosa. Ognuno di noi è esposto al contagio, ha spiegato, e rinnovo a tutti l'appello alla massima responsabilità personale e sociale. Berlusconi ora resterà in isolamento nella sua residenza ad Arcore fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. Per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie Rosanna, e intanto gli sviluppi dell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission, perché sono 9 in totale gli indagati per peculato, oltre ai 5 ai quali è già stata applicata la misura cautelare, tra cui anche i 3 commercialisti di fiducia della Lega e il prestanome Luca Sostegni. Figurano infatti anche altri 3 amministratori di società riconducibili ai professionisti che sono, appunto, come dicevamo, finiti ai domiciliari. E ora, sempre per la politica, apriamo la finestra sull'ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative e per il referendum sul taglio dei parlamentari. È alta la tensione nei partiti a una settimana da un doppio voto referendum regionali che avrà comunque un peso chiave sul proseguimento della legislatura. L'idea che il no al referendum possa dare una spallata al governo, ha detto ieri la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rischia di avere la meglio. Il giornale titola «Svolta della Meloni, con il no vanno a casa», ma Fratelli d'Italia oggi con un comunicato smentisce. «La notizia è falsa, siamo sempre stati e siamo per il sì». Cresce il no invece nella Lega, dopo Borghi, Centinaio e Siri, anche Giorgetti e da ultimo il presidente della Lombardia Fontana, con il leader Matteo Salvini che ha imposto lo stop alle dichiarazioni per il no. Alta tensione anche sulle regionali, con il Partito Democratico che teme di perdere, oltre alle Marche, anche la Puglia e la storica roccaforte della Toscana. Grazie al PD, ha detto stamattina Zingaretti, abbiamo ottenuto dall'Europa 300 miliardi di euro per risollevare l'Italia, mentre Salvini attacca sull'immigrazione, non sanno più dove metterli, votate noi per dire basta. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora andiamo all'estero. Incontro oggi tra il presidente bielorusso Lukashenko, accusato, come sapete, dalle opposizioni di aver manovrato il voto e quindi di essere un usurpatore, e il presidente invece russo Putin, che lo riceve. Come spiega uno scarno comunicato, il formato dell'incontro è quello del faccia a faccia. Lukashenko dunque chiede, Putin valuta, nella stessa lingua e a 4 occhi. Il presidente bielorusso è arrivato sul Mar Nero da leader sconfitto, colpevole di aver perso il controllo del paese dopo aver dichiarato di aver vinto con l'80% dei voti. La piazza non gli ha creduto, la repressione che ne è seguita non ha spento la protesta. Ora Minsk è un caso internazionale di cui Putin farebbe a meno di occuparsi, visto che l'Europa lo pungola già sul destino dell'oppositore Navalny, ma che gli offre una grande opportunità: stringere la Bielorussia in quella fratellanza moscovita moneta da cui per anni Lukashenko ha cercato con un certo successo di sottrarsi. Il presidente bielorusso in cerca di istruzioni, dunque, per restare al suo posto o improbabile per uscire di scena con onore. Troverà Putin di ottimo umore. I dati delle elezioni locali proprio in queste ore suggeriscono che ancora una volta i russi a Putin si affidano. Proprio quello che manca oggi al bielorusso, che è il più giovane dei due, ma che volge già al tramonto. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Un'ultima ora di cronaca, verifiche che riguarda il caso Colleferro, verifiche sul SUV su cui erano a bordo i fratelli Gabriele e Marco Bianchi verranno effettuate dagli inquirenti che indagano sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel corso di un pestaggio. Come sapete, l'attività è stata richiesta per verificare se all'interno dell'automobile siano presenti tracce ematiche della vittima. Google si impegna ad utilizzare energia carbon free 24 ore su 24, 7 giorni su 7 entro il 2030, l'annuncio di pochi minuti fa. E invece ci sono novità anche sul fronte di TikTok, la app di condivisione di video nel mirino degli Stati Uniti per timori sulla sicurezza nazionale. La scadenza fissata da Donald Trump per la messa al bando di TikTok negli Stati Uniti, salvo una cessione delle attività americane, è il 15 settembre. Questa mattina il Wall Street Journal aveva annunciato che il vincitore della gara era Oracle, che l'avrebbe spuntata su Microsoft e sarebbe stata pronta ad annunciare TikTok come fidato partner tecnologico. In mattinata però CGTN, network in lingua inglese della TV statale cinese CCTV, annuncia ByteDance non cederà gli asset americani a Oracle. I giochi in attesa della scadenza sono dunque ancora aperti. Ma c'è un altro accordo importante nel mondo delle tecnologie, questo già annunciato. La giapponese SoftBank cede Arm Holding alla statunitense Nvidia per la cifra record di 33,7 miliardi di euro. I chip ARM sono presenti in un grandissimo numero di dispositivi, tra telefoni e tablet, e ora anche sui portatili di Apple. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:11 minuti, siamo alla pagina sportiva. Giovanni Capuano, ciao Giovanni, buongiorno. Ciao, parliamo direi della domenica dei motori, se vuoi, è una domenica molto italiana tra Mugello e Misano, una domenica a due facce, quella felice di Franco Morbidelli, prima vittoria per lui in carriera per quanto riguarda la MotoGP, e quella felice di Pecco Bagnaia, ad esempio, primo podio sempre per la MotoGP a Misano, tutti e due primo e secondo. Se vogliamo anche la faccia felice di Valentino Rossi, che è arrivato quarto, è stato beffato nelle ultime curve e ha perso un podio tutto azzurro, ma si trova in corsa, sorpresa per il mondiale. È un mondiale pazzo questo, in testa c'è Dovizioso che ieri è arrivato settimo, ma ci sono sette piloti in 19 punti e quindi è aperto per tutti in assenza di Marc Marquez. E poi c'è la faccia scura della Ferrari, il weekend del Mugello è stato deprimente, Leclerc ha chiuso ottavo, Vettel decimo su 12 auto, perché le altre 8 si sono autoeliminate in una gara che ha riaperto anche il dibattito sulla sicurezza per i due brutti incidenti che sono stati vissuti fortunatamente senza gravi conseguenze. Al Mugello ha vinto il solito Lewis Hamilton, che è il dominatore della stagione, e secondo è arrivato Bottas a confermare il dominio delle Mercedes. Tra sette giorni si torna in pista a Misano sempre con le moto, mentre la Formula 1 si prende una settimana di riposo che non servirà alla Ferrari per rimettere in piedi una stagione più che deludente, ma servirà per cercare di riordinare almeno le idee in vista della trasferta a Sochi. E settimana prossima, questa sarà una lunga settimana di vigilia, ricomincia anche la Serie A. Grazie Giovanni, 13:13 minuti, facciamo una pausa dopo la sintesi delle notizie di oggi, torniamo tra poco con gli approfondimenti, ripartiremo parlando di scuola con due collegamenti da due scuole a Bergamo e a Roma. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Sono tornate in classe oltre 5 milioni di studenti dopo 7 mesi di stop tra gel, mascherine e termoscanner. Com'è andata? Ne parliamo tra poco. Coronavirus, l'OMS avverte, in autunno la situazione sarà più difficile. Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele, anche stavolta l'ho scampata, dice l'ex premier ricoverato per 12 giorni. TikTok rifiuta l'offerta del gigante americano Microsoft. E allora alle 13:16, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta e, come detto, parliamo ancora di scuola, di questa ripartenza, di questo anno scolastico che finalmente, dopo tante discussioni, è partito, e non possiamo che farlo con Maria Piera Ceci. Ciao, ben ciao, ritrovata. Eccomi qua. La nostra voce oggi, inesauribile fonte di notifiche. Che c'è, andrà voce, via la voce. Che c'è voce. Allora Piera, intanto diciamo un po' così in generale, no? Che anche la sensazione che hai avuto, le notizie che ci sono. In generale è andata bene, intanto perché lo ha detto Conte e condivido abbastanza, e in realtà c'era tanta voglia di tornarci davvero a scuola, in qualche modo, in qualsiasi modo, quindi i problemi non sono tutti risolti, ci mancherebbe altro, l'abbiamo detto anche nel servizio, 60.000 cattedre da coprire, banchi che non sono arrivati dappertutto, poi lo vedremo anche, però insomma la voglia c'era di tornare a scuola, l'hanno fatto. Devo dire che ha funzionato anche abbastanza la questione trasporti, che era una delle tante preoccupazioni che avvolgevano appunto questo rientro a scuola, quindi bene così. Criticità tantissime ne arrivano dalla cronaca, da posti di montagna dove sono state formate le pluriclassi, ma insomma tutti gli anni ci sono tanti problemi a scuola, quindi davvero sì. Non possiamo dire che quest'anno, per carità, ci si è aggiunto il Covid, che è una parte importantissima, ma si va a sommare a criticità che sono già presenti. Sì, alcune fra l'altro le abbiamo già raccontate anche nel servizio, nella parte del giornale radio. Ad Ancona gli assembramenti sono stati segnalati davanti alle scuole perché forse non ha funzionato lo scaglionamento, chissà, magari. Lo sa meglio di me, perché dei bambini piccoli davanti alle scuole primarie è dura convincere i genitori a non sostare, chiacchierare, prendersi il caffè insieme, cercare di portare i ragazzini fino proprio all'ultimo pezzettino. Sì. Beh no, è vero. Andiamo educati anche noi genitori. Devo dire che sì, poi dipende molto anche da come è stata organizzata l'apertura della scuola. Per esempio io stamattina ho portato la mia piccola alla materna e è già una settimana che sono rientrati, tutto molto ben organizzato. Fluido. Tutto molto fluido, ogni quarto d'ora entravano alcune classi, quindi sostanzialmente non le si faceva neanche. Le scuole stanno facendo il possibile con lo scaglionamento, anche con la differenziazione degli ingressi. Poi se tutti devono portare a scuola ancora i figli con la macchina fino al portone, è chiaro che l'assembramento questo, non lo eviti. Esatto, e questo è anche, se vogliamo, un altro antico forse problema. Vabbè, poi ci sono altre notizie, naturalmente in alcune città si sono utilizzati ex tribunali, tipo a Saluzzo in provincia di Cuneo, a Firenze si fa scuola in un teatro, ma questo accade in tutta Italia. Vi vogliamo invece raccontare adesso, in collegamento con il dirigente scolastico, liceo artistico Giacomo Pio Manzù di Bergamo, Cesare Botti. Buongiorno intanto. Buongiorno. Questa è un'altra storia più avanti. Nella vostra scuola è successo che i famosi banchi monoposto che erano stati ordinati non sono arrivati per tempo. Avete avuto un certo preavviso, però a quel che abbiamo capito, preside, cioè stato, avete comunque intanto svuotato la scuola dei vecchi banchi, quindi vi siete ritrovati praticamente senza banchi. Che soluzione avete adottato per far fronte a questa carenza non da poco? Allora, innanzitutto il problema è di tipo logistico, cioè l'azienda di distribuzione, siccome noi siamo proprio al centro di Bergamo, una zona densamente popolata, con viabilità molto ridotta, con tutta probabilità deve organizzare meglio il trasporto, quindi non possono venire con dei tir, quindi presumo che la difficoltà sia questa. Da parte nostra abbiamo cercato di trovarci pronti immediatamente. Ci avevano avvisato che 9 sarebbero stati consegnati, quindi abbiamo provveduto a svuotare le aule, anche perché noi, come liceo artistico, abbiamo dei banchi molto grandi per il disegno. Certo. E quindi abbiamo voi non potete usare quelli con le rotelle perché sono piccolini, non sono adatti sicuramente al disegno, allora, insomma. Per quanto riguarda il disegno, no, ne abbiamo ordinati un 150 perché lavoriamo su 3 plessi. In una sede avevamo delle aule piccole e non riuscivamo a garantire con i banchi 25 ragazzi, con questi banchi invece sì, quindi per noi sono stati assolutamente importanti. Approfitto per ricordare, Alessio, perché questi banchi con le rotelle che sono stati al centro di tante polemiche, secondo me anche un po' immotivate, perché come ci sta spiegando bene il preside, non è che è un divertimento del ministero aver dato questi banchi con le rotelle è sembrato però... ma non è così. Ma serve, essendo più piccoli, tra l'altro sono arrivati anche qui sotto al sole, se vuoi andarli a provare, Alessio, dei master, sì. E puoi andare a provarli, sono più piccoli, quindi consentono ovviamente di contenere un maggior numero di ragazzi all'interno delle aule più piccole. E poi vabbè, c'è tutto un discorso di didattica, ma diciamo che in questo momento la didattica ne riparliamo poi quando finisce l'emergenza. Prego, preside. Ci stava raccontando cui, che grazie a questi banchi comunque oggi abbiamo garantito la presenza, perché il primo giorno tutte le scuole bene o male fanno accoglienza, quindi accolgono le classi prime, quindi anche noi abbiamo colto le classi prime, ne avevamo 13, le abbiamo scaglionati per evitare gli assembramenti come è successo da altre parti, e quindi devo dire che tutto ha funzionato bene. Però se ho capito bene, avete accolto oggi le prime con i banchi che avevate a disposizione, distribuite nelle classi necessarie, e domani toccherà le seconde e poi via fino alle quinte venerdì. L'idea era quella di partire domani con tutte le classi in presenza, perché noi ci siamo impegnati ad avere tutte le classi in presenza e fare solo e soltanto didattica in presenza. E questo lasciare le fa onore, proprio, e questo le fa onore perché non deve essere stato semplice. No, anche perché ha creato molte criticità, ha dei limiti, va benissimo in alcuni casi, ad esempio noi abbiamo fatto i corsi di recupero, avevamo due ragazzi che erano in quarantena fiduciaria, quindi non potevano venire a scuola e quindi abbiamo attivato una didattica a distanza con il docente in classe con i compagni, che spiegava i compagni, e lo studente a casa che seguiva contemporaneamente. Quindi questa modalità comunque noi la utilizzeremo durante l'anno per gli studenti che non possono venire a scuola, certo, per tanti motivi. Quindi primo fra tutti la quarantena, che tra l'altro è pure lunga, perché sono 14 giorni fino a che non la dimezzano. Quelli che hanno raffreddore, che hanno la tosse, perché ci sono anche queste casistiche quest'anno. Certo. Quindi, prego. La richiesta di avere un numero cospicuo di banchi nasce appunto dal fatto di riuscire a garantire a tutti gli studenti la didattica in presenza. Scaglionati, quindi su turni differenziati 8, 9, 10. Ecco, questo mi interessava capire. L'orario scolastico rispetto all'anno scorso, avete dovuto comprimerlo o sarà un orario diciamo uguale a quello dell'anno scorso? Noi manteniamo, noi innanzitutto come liceo artistico siamo quelli che ha il numero di ore settimanali maggiori di tutti, 34 al biennio e 35 al triennio. Normalmente noi facciamo tutte lezioni dalle 8 alle 14 e innestiamo un pomeriggio, quindi tutti i giorni fanno praticamente 6 ore. Ecco, siete riusciti a conservare questo monte ore? Quest'anno dovremmo, certo, il monte ore lo conserviamo, rimodulando ovviamente le presenze, quindi non so, 8, 14, 9, 15, 10, 16, in questo modo. Sarà un po' complicato, non è semplice, lo sappiamo, i ragazzi vogliono comunque venire a scuola, idem i docenti non hanno fatto molta fatica sulla didattica a distanza. Siamo stati una fra le prime scuole in una battuta, che clima c'era questa mattina a scuola? Entusiasta. Oh, bene, finiamo così questo collegamento, perché insomma dopo tante polemiche, tanti problemi di cui abbiamo parlato, è anche giusto oggi insomma festeggiare un po'. Le scuole si sono attivate tutte per dare al meglio delle risposte. Grazie. Grazie a Cesare Botti, dirigente scolastico, Giacomo Pio Manzù di Bergamo. Sì, effettivamente insomma è un po' questo, no? L'entusiasmo, ma è anche... Io stamattina ho accompagnato, dicevo, la mia piccola alla materna, l'altra è andata alle elementari con la mamma, poi ho visto un po' di messaggi sui social e mi sono reso conto che in effetti per ora poi saremo smentiti, magari è andato tutto bene, ma io ho pensato lo potevamo fare anche prima, quando dicevamo, no? Qui da Radio 24 in tanti... Si può fare, andiamo, proviamo. Sì. Non si è mai pronti fino all'ultimo, però insomma, alla fine. Però era doveroso farlo, anche perché gel, mascherine e termometri li avevamo a disposizione già mesi fa. Le aule scolastiche, potevamo iniziare i lavori a maggio con le scuole chiuse. Era questo il senso di dire proviamoci, cioè avere un po' di coraggio in più, e anche questo riguarda, credo, tutta la comunità proprio, no? Sì, anche Alessio, genitori, c'è da dire che insegnanti. Dovevano aspettare dal ministero anche l'aggiornamento. Bravo. Dal punto di vista politico è mancato però un comando, secondo me questo è mancato, cioè una volontà chiara di mettere davvero la scuola in primo piano e di dire non solo a parole, è una priorità e quindi proviamo. Tutto questo anche per prendere qualche secondo, perché abbiamo collegata con noi Patrizia Marini, che è dirigente dell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma. Benvenuta. No, ecco, no, è caduta la linea, lì. Non è benvenuta, non cioè, è benvenuta ma non è ancora arrivata, con la quale raccontiamo anche la storia di quest'altra scuola, dove Anche lì si è dovuto fronteggiare la questione, in questo caso ve lo anticipo, delle aule scolastiche piccole, non sufficienti a garantire la rarefazione, e quindi hanno trovato una soluzione, Piera, abbastanza sì, perché sono 50.000 gli studenti che in teoria sarebbero rimasti senza un'aula adatta a contenerli, cioè un'aula ce l'avrebbero anche, ma dovrebbero avere la mascherina addosso per tutto perché il tempo, no, perché non vicini. C'è, e insomma è un po' dura, no, magari anche al banco stare seduti con. E quindi si è scatenata la fantasia, ma anche l'intraprendenza, perché la fantasia è sempre un po', no, così, l'intraprendenza dei presidi, a cui sono arrivati anche i soldi, importante sì, dirlo, sì, perché sono arrivati tanti soldi ai presidi da investire su questo, cioè trovate alternative se non potete avere tutti i ragazzi in classe, e i dirigenti scolastici si sono dati da fare, hanno trovato tanti spazi in teatri, in cinema, la Curia a Roma per esempio ha dato la possibilità di andare in alcuni spazi della Curia, mi viene in mente a Vicenza il museo delle macchine tessili che ha dato a disposizione gli spazi. Ma Milano, museo della scienza e della tecnologia, lo so perché sarà esatto, utilizzato dalla scuola tutti di mia figlia, sono messi a disposizione, e trovo che questa cosa sia davvero una bella prova per il nostro paese. Allora, il Sereni di Roma, con cui stiamo cercando di stabilire il collegamento, la soluzione adottata è stata quella di fare delle aule all'aperto, praticamente sotto delle tensostrutture di un certo grado, diciamo, ce ne sono diverse anche a Milano, in effetti, non so se l'hai vista. Esatto, è una soluzione anche questa. Perché questo è un tecnico agrario, quindi nel sì, frattempo, mentre aspettiamo, mi è da pensare mi è il da fatto pensare, di avere spazio aperto intorno sì, è utile, gli istituti tecnici agrari hanno tanto spazio, perché chiaramente i ragazzi, quello è il loro laboratorio, no? Quindi la terra, esatto, stare a cielo aperto. Eccola qua, ci ha raggiunto Patrizia Marini questa volta, forse sì. Salve, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, penso che parlate dei nostri istituti e mi fa molto piacere. Insomma, avete, diciamo, dimostrato che con un po' di fantasia, di buona volontà, comunque l'anno scolastico è partito. Intanto com'è andata oggi? È andata molto molto bene. Noi già da una settimana siamo aperti con la vendemmia, con i ragazzi delle quinte, delle classi seste, perché siamo le uniche scuole che hanno anche un sesto anno enologico. E oggi sono entrati anche tutte le classi prime per la prima volta e abbiamo fatto la giornata che è speciale per l'apertura dell'anno scolastico. Devo dire, con tanti timori, ma tutto è andato molto bene, regolarità, attenzione alle regole, alle norme, i ragazzi sono stati deliziosi, un grande lavoro di squadra, certo, da parte sì, di tutto. Si è tanto parlato team di questi ragazzi, no, che non avrebbero mai rispettato le regole. Non è vero, anch'io sono d'accordo con lei, in realtà hanno voglia di stare a scuola, questo inverno si sono anche un po' spaventati, e quindi secondo me, insomma, nella gran sono parte pronti sì, sono pronti a rispettare le regole. Ma ci racconti un po', quindi, come ha fatto con tutti questi ragazzi, perché non tutti entravano nella sua scuola, grazie al fatto che siete un tecnico agrario e quindi avete tanto spazio all'esterno, l'avete utilizzato? Esattamente, io ho acquistato 6 enormi tendoni per l'aperto, per fare delle lezioni all'aperto, e quindi abbiamo iniziato con le lezioni in area aperta e con le attività in azienda agraria. I ragazzi sono stati entusiasti, perché in questa maniera il distanziamento è rassicurato, possono fare lezioni senza alcun problema all'interno della scuola, con anche senza mascherine. Non ci sono problemi di contagio, e poi il contatto con la natura per chi sceglie questo tipo di scuola è fondamentale. È ovvio che questa possibilità l'ho avuta grazie ai fondi del Ministero, perché altrimenti la scuola non avrebbe mai potuto affrontare una spesa del genere. Però complimenti anche per averli saputi impiegare, perché tante volte sappiamo che i fondi ci sono e non si usano. Una curiosità, però poi magari è una curiosità stupida, in autunno, insomma a novembre, a dicembre, quando sarà più freddo, come ve la cavate con queste tensostrutture? Allora, diciamo che io ho la fortuna di vivere a Roma e la mia scuola è in una zona meravigliosa dove spesso il tempo è bello. Comunque sia, dovesse piovere, abbiamo anche le 2 palestre che abbiamo lasciato libere per l'eventualità in cui gli alunni non possano non, più sostare. Non teme il freddo, non teme il freddo. E per il freddo? Ma sono ragazzi abbastanza temperati. Ma no? Sì, i ragazzi non hanno ragazzi mai freddo. Pronti. E poi i ragazzi avevano voglia di tornare a scuola, come noi avevamo voglia di tornare con loro, perché nei nostri istituti, soprattutto i tecnici e professionali, se si toglie l'attività proprio professionalizzante non ha più motivo d'essere, e quindi quei 6 mesi che c'è stato il lockdown per noi sono stati veramente un gravissimo disagio. Ora li vogliamo dentro, li vogliamo accogliere nella maniera migliore, far recuperare il tempo perduto. Va bene, grazie anche a lei Patrizia Marini del Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma. Insomma, è andata. Piera, Radio 24. Radio 24 continuerà tutto il giorno a parlare di scuola nei suoi vari aspetti, avremo ancora tantissimi collegamenti. Poi alle 16.30 c'è l'apertura dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Vo, di cui abbiamo sentito il preside questa mattina, quindi insomma continueremo per tutto il giorno nel Radio Day. Grazie mille. 13.31, noi facciamo una piccola pausa e tra poco torniamo, ci occuperemo dei pescherecci italiani siciliani che si trovano in Libia dopo l'offerta di Haftar di fare uno scambio con quattro libici condannati per terrorismo in Italia. Tra poco, 349-238-6666. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Effetto Giorno. Le notizie di oggi: la scuola riparte, Conte, abbiamo fiducia e entusiasmo, in aula 5 milioni e mezzo di studenti dopo quasi 7 mesi. Coronavirus, l'OMS avverte, in autunno la situazione sarà più difficile, nuovo record di contagi nel mondo, oltre 300.000 nelle ultime 24 ore. Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele, anche stavolta l'ho scampata, dice l'ex premier. Pescherecci italiani fermati in Libia, il generale Haftar propone lo scambio con quattro libici condannati per traffico di clandestini. Sono calciatori, dice, ne parliamo tra poco. minuti, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. Qualche messaggio al 349-238-6666. Ce n'è uno che dice così: è stata una decisione sciagurata e gli effetti li vedremo presto. E fin qua non capivo se si riferisse al fatto che non abbiamo ancora riaperto la scuola fino ad oggi, quando gli altri paesi ci hanno provato, perché comunque tenere chiuse le scuole avrà effetti sciagurati sicuramente sul futuro dei nostri ragazzi. Invece no, era naturalmente sull'altro versante, cioè preoccupato per gli effetti sul contagio. Dice questo ascoltatore: non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma a me piace usare il cervello, eccetera, eccetera, prima di prendere una decisione sperando nella divina provvidenza. Nessuno spera nella divina provvidenza. Quando diciamo che ci vuole coraggio, è per dire che ci vuole una spinta, perché altrimenti la paura è ovvio che ci trattiene tutti chiusi dentro casa, no? Poi ci vuole un qualche cosa che ci richiami invece fuori, una necessità, la necessità di sopravvivere, per esempio, vediamola così. Un altro ascoltatore dice: ma se la priorità del governo non era la scuola, come ha fatto a dargli tanti soldi? I soldi sono stati annunciati, effettivamente, effettivamente sì, sono stati annunciati, ma sono degli annunci, e per mettere la scuola in cima all'agenda, quando ho detto questo mi riferivo al fatto proprio di dimostrarlo concretamente, no? Cioè di tentare in qualunque modo di riaprire le scuole, ma non affidandosi alla divina provvidenza, affidandosi a quello che stiamo facendo per esempio oggi: mascherine, gel per disinfettarsi le mani, termoscanner. Queste cose ce le avevamo già anche a maggio, non c'era bisogno di arrivare a settembre, si poteva riaprire il mese di giugno. I lavori nelle aule scolastiche, perché non abbiamo fatti ad aprile o a maggio, che le scuole erano chiuse? Questo era questa la critica che è stata fatta tante volte da questi microfoni, da Radio 24, su questa questione della scuola, non su altro. Questo ascoltatore invece dice: un aspetto positivo della pandemia, la faccio un po' lunga oggi perché i messaggi sono tanti, è giusto, sulla scuola. Un aspetto positivo è questa spinta verso le tecnologie, potrà essere usata anche in futuro per consentire di seguire le lezioni anche a studenti costretti a casa magari per un'influenza. Giusto, verissimo. Alberto Rioli. Il punto di Alberto Orioli. Non possiamo non parlare di scuola. Lo sapete già, mancano 70.000 supplenti e forse altrettanti per gestire la riorganizzazione imposta dal Covid. Mancano poi 2,2 milioni di banchi e oggi in molte classi si potrà lavorare grazie alla buona volontà di insegnanti, genitori e personale amministrativo, e grazie anche a una buona dose di fantasia fai da te. Per alcuni studenti ci sarà soltanto una sedia, niente banco, come fossimo in tempo di guerra. Non sappiamo se sarà obbligatorio il tampone per gli insegnanti, ma sappiamo che quando l'hanno fatto in 13.000 sono stati costretti alla quarantena. e adesso mancano all'appello. Sappiamo anche che per oltre 50.000 ragazze e ragazzi sarà obbligatoria la mascherina, anche se ne sono state fornite 94 milioni di pezzi alle diverse scuole. La scuola riapre in nome di un patto di corresponsabilità tra insegnanti, studenti e genitori. Tutti faranno la loro parte, ma quel patto avrà valore quando, superata la fase dell'emergenza, si parlerà di programmi in un paese che conta quasi il 30% di analfabeti funzionali e il numero più basso di laureati in Europa. Che dire poi delle scuole, degli edifici scolastici, i luoghi simbolo del valore che un paese dà all'istruzione? Ebbene, il patto sarà rispettato quando delle scuole italiane si parlerà nel mondo come oggi si parla del grattacielo del bosco verticale. Adesso è con noi Vita Martinciglio, deputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e buongiorno a tutti ai vostri audio spettatori. Allora, Martinciglio, lei è stata eletta nel collegio di Mazara del Vallo. Effettivamente era la zona da cui provengono i pescherecci, i due pescherecci italiani che si trovano in Libia con i loro 18 membri dell'equipaggio trattenuti perché questi pescherecci, dicono i libici, avrebbero violato le acque libiche. La novità delle ultime ore è la proposta del generale Haftar, che appunto ha proposto uno scambio tra questi membri dell'equipaggio, se abbiamo capito bene, Martinciglio, e quattro libici che sono stati condannati in Italia per traffico di clandestini. Io intanto le chiedo, prima di spiegarci anche gli aspetti, diciamo, geopolitici che a questo punto la vicenda sta assumendo, che notizie si hanno dirette sui 18 membri dell'equipaggio? Io sì. Nel senso che ovviamente le notizie che mi giungono sono notizie che mi vengono trasmesse dal nostro ambasciatore a Bengasi, non ovviamente a Tripoli, e anche dal consiglieri della Farnesina. L'equipaggio sta bene. Ok. Al momento risiedo in una struttura a disposizione delle autorità libiche. Che tipo di struttura è e che tipo di autorità, di che autorità stiamo parlando? Ovviamente milizie? Ricordiamo che nella parte della Cirenaica, sì, che è il cosiddetto governo militare non riconosciuto dalle autorità internazionali, quindi dall'ONU, a capo del comandante Haftar. E quindi a disposizione da parte della milizia libica, che essendo un governo militare, quindi a disposizione per l'espletamento delle funzioni, ma non si tratta di una struttura di detenzione libica. Si tratta di una struttura che ovviamente non è né una sede di alloggio né un hotel, però non è neanche un luogo di detenzione. Comunque sono trattenuti contro la loro volontà, questo credo che sia evidente. Perché... Ma stanno bene. Beh, questo è l'importante. Ad oggi non sono in stato di fermo, non hanno le manette, non sono in uno stato di detenzione, quindi non sono nelle prigioni libiche. Ecco. Diciamo che non possono rientrare neanche volendo perché non saprebbero come farlo e comunque sono di fatto trattenuti. Perché certo, è nata questa questione? Per la questione delle acque delle acque libiche, no? Perché c'è un confine che in qualche modo si sposta, sarebbero 12 miglia, però poi la Libia ne rivendica uno spazio maggiore, una questione antica, giusto? È una questione antica, frutto di questa autoattribuzione di quel governo lì, che ribadisco ancora non è il governo riconosciuto dalle autorità internazionali, che prevede appunto un'attribuzione delle acque che vanno al di là della delimitazione prevista come acque nazionali a livello internazionale. Ecco, questo scambio che viene proposto da Haftar, che significato ha? È una cosa che questa per l'Italia non può essere valutata, diciamo, a cuor leggero. Sono quattro condannati per gravi reati. Sì, anche se vengono delineati, definiti dalla stampa locale libica come dei promettenti calciatori. In realtà sono delle persone che sono state già sottoposte a regolare processo penale, sono stati condannati e quindi non sono ovviamente dei calciatori come intendono, come vengono così delineati dalla stampa libica. Credo che l'obiettivo sia più che altro spostare l'attenzione, nel senso che non viene nessun tipo di trattativa che ha per oggetto questo tipo di scambio allo stato odierno. E quindi diciamo questo si inserisce nel modo in cui l'Italia sta cercando di tenere insomma in piedi anche la diplomazia in Libia. In pochi secondi le chiedo cosa ci aspetterà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni da questo punto di vista. Ovviamente le fasi della trattativa, proprio perché ci troviamo in quella parte lì della Libia, hanno una connotazione diversa, sì. E rendono tutto rendono tutto più difficoltoso rispetto ad una situazione normale. Lì non abbiamo, per ovvie ragioni politiche, un nostro ambasciatore, non c'è più una sede di ambasciata italiana, per cui anche è una situazione sì, oggettivamente anche tutte le trattative complicata. Politiche che sono messe in piedi dal primo giorno, perché ecco, ritengo ribadire che il governo italiano è presente. Devo però chiudere, onorevole Martinciglio, la ringrazio. Insomma, il tempo a disposizione è finito, la vicenda va avanti, vedremo. Io vi ringrazio, vi lascio ad hashtag Autotrasporti. A domani, ciao. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it